Parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, ospiti Razzmatazz, che ora ci faranno ascoltare alcuni brani del loro disco Global Revolution, come ad esempio il primo che abbiamo sentito, titolo Global Revolution, appunto la title track. La vostra esperienza in sala di registrazione, quali le idee musicali che hanno dato vita a questo nuovo album, come sentite di aver lavorato questa volta? Questa volta rispetto al demo abbiamo sicuramente lavorato con più consapevolezza delle fasi che portano a creare un disco. È stata molto importante la fase di preproduzione per capire bene quali fossero gli arrangiamenti giusti e soprattutto per ottenere quello che volevamo noi, che era un disco che sembrasse suonato live, come invece purtroppo non abbiamo potuto fare per ovvie esigenze di registrazione. Quale invece la prossima canzone? La prossima canzone, Roberto? Ah, bel Go to Gay Pride, direi. Tonight is cold, I need your smile. Why in studio con i Razzmatazz, il disco di recentissima uscita, ma ho già letto alcune recensioni. Come vi sembra la critica abbia accolto il disco? Quali le più significative? La critica, come al solito, alti e bassi. Certi ci hanno già demolito e certi ci hanno osannato. Per fortuna. Per fortuna direi. È sempre bello creare vari umori nelle persone. Prenderei come punto di riferimento, per quello che mi riguarda, quella di Metal Hammer, che comunque, senza mezzi termini, ha colto nel segno, che era quello che volevamo fare noi, cioè fare del rock and roll senza dover star lì a cervellarsi, cercare di essere originali per forza in qualche modo. E quindi sono molto contento di questa recensione, che diciamo la verità sta nel mezzo, ecco. Bene, il prossimo brano per i nostri ascoltatori: Take Me Home. Torniamo tra poco per l'ultima parte di Rock Legends con i Razzmatazz. Voi state sempre su Radio RCS.